Avventurieri, le foglie di Mizra sono pronte. Ma attenzione, la loro preparazione è tutt'altro che semplice. Esistono due varietà, ciascuna con una diversa composizione alchemica. Foglia chiara, C8, H10, N4, O2, che contiene 4 atomi di azoto, N. Foglia scura, C6, H8, N2, O4, che contiene 2 atomi di azoto, N. Ogni infuso deve contenere almeno 7 atomi di azoto, ma non più di 9, e avere almeno una foglia chiara e una scura. Quante foglie scure servono per una porzione di tè affinché l'infuso sia potente ma non pericoloso?